24 mattino. Tutti giù per aria, tutti quanti storie. Di nuovo giù per aria l'aviazione italiana, di nuovo KO dei voli di linea. Prima era l'Alitalia a rischiare il fallimento e adesso c'è Ryanair, che poi dovrebbe essere la compagnia che compra l'Alitalia. Allora è la notizia del giorno e l'apertura riguarda tutti noi, riguarda il popolo dei tigi, come diceva il grande Paolini, il popolo di chi vola. E io comincio dal Sole 24 Ore, che parte subito con una notizia che altri non hanno enucleato così. Ryanair, danni per 25 milioni, più di 400.000 passeggeri a terra. L'Unione Europea, rispetti i diritti, Del Rio, disagi gravissimi. È il pezzo di Riccardo Barlam che inizia così, molto bene. È un pasticcio irlandese con risvolti europei e disagi reali per centinaia di migliaia di persone. È quello che sta capitando in questi giorni negli aeroporti di tutta Europa, dopo la decisione improvvisa di Ryanair venerdì scorso di cancellare nelle prossime 6 settimane circa 2.100 voli, al ritmo di 40-50 voli in meno al giorno, pensate un po'. 182 nella sola giornata di domenica, sino a fine ottobre. Una decisione maturata ufficialmente, scrive Barlam, per, pensate un po', per garantire le ferie. E insomma, questo è il punto di partenza di questa storia, ed è una storia buffa, paradossale, anche inquietante. Ma subito l'approfondimento, sempre sul Sole, Cristina Casadei: la fuga dei piloti a partita IVA non assunti, con ferie e malattie non pagate. Un comandante racconta: niente contratto collettivo, niente sindacato. E spiega alla Casadei sul Sole: appena può uno se ne va. Fino a poco tempo fa il mercato era fermo, adesso si è riaperto. E apriti cielo, chi parla è un ex pilota di Ryanair che ci ha raccontato i suoi anni nella compagnia. E questa è la prima, come dire, la prima scelta che dobbiamo fare per spiegarvi. Ma sul Corriere della Sera ci sono dei pezzi importanti, soprattutto quelli che spiegano il punto di vista di Olliri. E allora Di Landro e Savelli sul Corriere della Sera, una doppia pagina. E Olliri, il fondatore, guru, padre padrone di Ryanair, spiega: no, ma non è un grande disagio, figuriamoci, sono stati cancellati soltanto il 2% dei voli, soltanto il 2%, ma figurati. Andiamo però alla notizia gialla del giorno, il caso di Emanuele Orlandi. Beh, tu dici, quando è scomparsa Emanuele Orlandi io ero un bambino. In questi 10 anni, 20 anni, 30 anni, il tempo è passato lunghissimo e ogni volta è successo qualcosa, un colpo di scena. Bene, e adesso l'ultimo, lo sapete, la rivelazione di un dossier con cui sarebbe stato pagato le spese, sarebbero state pagate le spese, un dossier in Vaticano che spiega come sarebbero state pagate le spese di una persona, e questa persona, secondo il giornalista Emiliano Fittipaldi, è Emanuele Orlandi. Allora, subito la reazione alla notizia che è arrivata ieri del Vaticano, con il pezzo di Paolo Rodari su Repubblica, pagina 16: è tutto falso, è ridicolo. La Santa Sede avrebbe speso 483 milioni di lire, spiega Rodari, fino al 1997 per mantenere la giovane scomparsa 14 anni prima. Il fratello: il muro sta cadendo. Non ho mai ricevuto alcuna rendicontazione, dice il cardinale Giovanni Battista Re, uno dei destinari di quella lettera. E poi andiamo al pezzo di Fittipaldi, quello che ha lanciato la storia: 30 anni di misteri dietro quella lettera sepolta in una cassaforte. Sappiamo che in quell'armadio blindato, scrive Fittipaldi, dove vecchi documenti sensibili erano incredibilmente accatastati alla rinfusa e senza catalogazione, è stato violato della notte del 29 marzo 2014 da uno o più ladri che non sono mai stati identificati. Né dal Vaticano, spiega Fittipaldi su Repubblica, le cui indagini effettuate dalla gendarmeria guidate da Domenico Gianni sono tuttora segrete, non dalla polizia italiana. Da qui è partita la notizia. Fittipaldi tornerà a parlarne con noi in diretta fra poco. Ma vi dicevo, è anche il giorno dello Ius Culture. Niente di meglio per raccontare questo ennesimo, diciamo, ribaltone, questo cambio diverso che avevamo annunciato ieri con l'accordo fra il Vaticano e il governo Gentiloni, rivelato da Repubblica, per fare una legge quando si sembrava che fosse sepolta. E Libero apre un dibattito a due voci, tutte e due contro il Vaticano, quindi un due voci un po' strane, però ve lo segnalo. Gianluigi Paragone: non posso digerire la santa alleanza fra governo Vaticano, dove è finita la laicità, si chiede il conduttore dell'Ultima Parola, criticando questo patto. E invece Feltri, tra virgolette difendendo, dice: ma la Chiesa parli, noi abbiamo il diritto di ignorarla. E per darvi invece l'idea del contrappunto, su Avvenire, soddisfatto ovviamente per questa notizia, Ius Culture, appelli, ragioni e passi avanti, il centrosinistra spinge. E qui la cosa che vi devo segnalare, perché non è chiaro che cosa, né dagli altri giornali, cosa cambierebbe, e qui lo spiega bene Avvenire con la nota di Roberta D'Angelo, pagina 6, Alfano AP, il suo partito, tornerà a discutere. Il ministro degli esteri, annuncia Roberta D'Angelo, riunirà la direzione del suo partito. Questo è il nodo, cioè se cambia la politica del governo è perché AP cambia posizione. Allora, questa è la cosa più importante che riguarda lo Ius Soli e lo Ius Culture, come lo volete chiamare, sulla Verità. L'attacco durissimo a uno dei protagonisti di questa storia è, pensate un po', secondo Lorenzo Bertocchi, Tarquinio. Cioè, chi è Tarquinio? È il direttore del quotidiano dei Vescovi Avvenire, ma secondo La Verità è il padre di questo accordo. Tarquinio guida il partito degli utili idioti cattolici. E poi il fondo di Belpietro: il Vaticano convertito a Repubblica ora decide che può diventare italiano. Pensate un po'. Su Libero avete una breve, ma a me mi divertono queste associazioni, che spiega come veramente il quotidiano dei Vescovi sia nel mirino. Avvenire boicottato in parrocchia, a pagina 7. Avvenire e il suo direttore si sono schierati a favore dello Ius Soli, ma la presa di posizione non è piaciuta a tutti. Per Don Paolo Pizzuti questo è fare politica, e annuncia: oggi niente distribuzione di Avvenire in parrocchia. Contro il giornale e lo Ius Soli anche Filippo Savarese, portavoce di Generazione Famiglia. Mi pare che siamo partiti alla grande con molte cose intriganti, e ci fermiamo per la pubblicità. Casa, dolce casa, finché va tutto bene, ma basta un allagamento, un incendio o un furto e la tua tranquillità è messa a dura prova. Fortuna che c'è Poste Protezione Innova Casa Più, una polizza semplice e accessibile. Vai all'ufficio postale o visita il sito poste.it. Assicurati alle Poste. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo su poste.it e negli uffici postali. Buongiorno, vi parla Plan, la più antica ONG al mondo. Ci dedichiamo ai bambini nei luoghi più sfortunati del pianeta. Ci stanno a cuore le ultime degli ultimi, le troppe bambine che non vanno a scuola, che lavorano, che devono sposarsi al tempo dei giochi. La campagna lanciata da Plan, Because I Am a Girl, vuole metterle in condizioni di vivere come bambine. Per aderire, Plan International Italia, www.plan-international.it. Nuovo GLA ti aspetta negli showroom Mercedes-Benz con Ludotech, il laboratorio. Papà, togli due punti nel codice sorgente. Il laboratorio di robotica più creativo che c'è. La tecnologia è un gioco da ragazzi. Vieni con i tuoi figli negli showroom Mercedes-Benz. Tu provi il nuovo GLA. Loro progettano l'auto del futuro con Ludotech. Mettilo in programma il 23 e 24 settembre. Scopri le sedi aderenti su mercedesbenz.it. Corrono, giocano, ci vogliono bene. Sono felici insieme a noi. Per questo il benessere e la salute dei nostri amici a quattro zampe ci sta particolarmente a cuore. Da oltre 50 anni la famiglia Monge nutre il vostro amore per loro. Tutti i giorni prepariamo con passione cibi buoni, sani e genuini con i migliori ingredienti. Monge, Le Chat e Special Dog. Ricette senza coloranti e conservanti. Bocconi cotti al forno e crocchette con tanta carne fresca di altissima qualità. Monge, dal 1963, la famiglia italiana del pet food. State ascoltando un programma offerto da... Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Mattino. E di nuovo soldi accompagnati dall'arpeggio di David Gilmour e dei Pink Floyd. Ebbene, oggi parto dal Sole 24 Ore. Il debito, il mercato, la dottrina tedesca è un grande pezzo di scenario di Carlo Bastasin, che però ci deve in qualche modo anche preoccupare. Cioè, la nuova dottrina tedesca, secondo quanto racconta l'editorialista del Corriere, è quella di mettere fine alla politica della Banca Centrale Europea tenuta fino adesso e iniziare a restituire a ciascuno i propri debiti, così biblicamente. Spiega Bastasin, per riconsegnare potere ai mercati, Schäuble vuole ristabilire un principio di rischiosità dei debiti pubblici nazionali. Una volta che un paese richiede assistenza finanziaria, incorre nella ristrutturazione automatica del debito. La sola esistenza di questo meccanismo creerebbe un divario a rischio fra i bond dei paesi meno sicuri e quello dei paesi virtuosi. Lo spread che ne risulterebbe, scrive Bastasin sul Sole 24 Ore di oggi, prima pagina, sarebbe, secondo Schäuble, uno stimolo alla correzione della politica fiscale più efficace dei compromessi politici di Bruxelles. Attenzione, siamo noi lo Stato povero d'Italia, di questo forse litigheremo con il mitico Oscar fra poco in Cani e Gatti. Allora, invece, una notizia importante arriva da Di Vico sul Corriere della Sera: Federacciai contro l'antitrust. Gozzi, che come sapete Antonio Gozzi, il presidente di Federacciai, sono dei burocrati e chiede un'asta per Piombino. Sì, perché è in gioco il futuro di uno degli stabilimenti più importanti industriali italiani. Come sapete c'era un piano di salvataggio, non ha funzionato, e su questa operazione punta il dito Gozzi. Allora, ecco che cosa dice: fallita l'operazione imperniata su Rebrab, il gruppo indiano che si era proposto di rilevare lo stabilimento, racconta Di Vico. Federacciai si aspetta che venga aperta una nuova asta competitiva per l'impianto toscano. Sul caso Ilva, infine, Gozzi ha salutato la nuova compagine azionaria, Mittal Marcegaglia, e ha auspicato che Taranto riparte e ritorni a essere uno dei stabilimenti siderurgici più importanti del mondo. Sapete, il 14.4% dell'acciaio europeo si fa in Italia, e questo è importante per capire: non si tratta solo di produzione, di PIL, si tratta anche di posti di lavoro. Ma da qui vado, per chiudere la nostra pagina dei soldi, vado a raccontarvi che cosa succede in campo economico, dove Libero annuncia che Urbano Cairo ha deciso di costruire una nuova casa editrice per fare concorrenza alla sua ex casa editrice. Ha venduto, come sapete, RCS Libri alla Rizzoli, e nasce Cairo, lancerà Solferino 36, casa editrice anti Mondadori. Paolo Bianchi, una guerra di carta che speriamo arricchisca il mercato. E voglio invece andare subito al caso di Saviano. Sentiamo il vero De Luca che parlava di Saviano. Di Maio si presenta bene, un po' come Charlie Brown, ma lui come attività professionale vanta questo: svolgo, ecco questo è il suo curriculum, la professione libera di webmaster, che è una formula elegante per dire lo sfaccendato, fa niente. Però ci tiene ad informarci che in realtà ha fatto altre esperienze lavorative, fra cui steward presso la Tribuna Autorità dello Stadio San Paolo di Napoli, assistente regista, tecnico riparatore dei computer, agente commerciale, manovale presso un'impresa edilizia. Tutta questa roba in 28 anni di vita. Era un De Luca del 2015, non su Saviano, che invece sfida Di Maio, ma su Di Maio stesso. Però la notizia del giorno è proprio questa: scende in campo uno degli scrittori italiani più famosi nel mondo, Perché dice: ci sono solo nani in campo, è una situazione bulgara e allora mi candido. Il pezzo di Rebotti sul Corriere della Sera, alla provocazione di Saviano, diventa un caso nella giornata in cui il Movimento 5 Stelle vara con fatica, tensioni e metodi farraginosi la competizione per scegliere il candidato premier. Piomba la provocazione di Saviano. Mi candido io. Saviano è tempestivo. Mentre i termini per presentare le candidature scadono e ancora i 5 Stelle non comunicano che siano gli sfidanti di Di Maio, lo scrittore ieri pomeriggio interviene su Facebook per ufficializzare la sua candidatura premier. Lo sapete, smetto un attimo di leggere Rebotti, che Grillo fece la stessa cosa. Si candidò iscrivendosi d'estate in una sezione del PD di Arzachena, il segretario era Fassino e fece arrabbiare tutti. Fassino lo mise fuori. Che cosa farà Grillo con Saviano, che fa quello che faceva Grillo con Fassino? Ah, i posteri, l'arda sentenza. Su Repubblica una vignetta caustica e feroce di LK: Di Maio contro il nulla, risposta dell'altro interlocutore, e allora vinca il migliore del nulla. Allora, stiamo parlando di sondaggi. Ebbene, i sondaggi pubblicati oggi danno una strana uno strano colpo di tendenza in Sicilia. Infatti indicano come vincitore Musumeci, addirittura sono quelli di non di Pagnoncelli ma di ora vi dico qual è la ditta dei sondaggi, danno vincitore col 42%, pensate un po', il candidato del centrodestra, e danno secondi appaiati il Movimento 5 Stelle col 25% e il candidato della sinistra Claudio Fava anche lui con il 25%. Allora, Bossi, dalla Verità c'è una notizia che fra l'altro riecheggia anche un Brunetta che avete sentito ieri qui, è Giorgio Gandola, pagina 7. Per Bossi c'è una vita oltre la Lega, anzi due. Racconta Gandola, scaricato da Salvini a Pontida, il senatore riceve l'invito di Brunetta a nome di Forza Italia. Braccia aperte per chi cerca un punto di approdo. E c'è anche Grande Nord, la risposta localista ai moti del Carroccio verso il sud. Umberto è il nostro faro. Quante volte, racconta Gandola sulla Verità, Umberto Bossi ha usato in passato la colorita frase «Taques al tram». Perdonatemi, non sono padano. Per mandare a quel paese amici e nemici o semplici conoscenti. E quante volte Matteo Salvini gli ha offerto assist per farsela definitivamente dire, ma ha constatato solo un arrendevole silenzio e nessun rumore di porte che sbattono. L'ultima, domenica a Pontida, sul Pratone della Rivoluzione, inventato da Bossi nel 90, davanti a un popolo di 60.000. Me ne vado, forse è giunto il momento di andarsene. E questa è la notizia in casa Lega. Eccolo qua, dicevo, finalmente ho ritrovato anche il sondaggio, vedi, era sempre sulla Verità, ed è questo sondaggio è stato condotto da un istituto che, va detto, ha lavorato per la candidatura di Fava e dà, pensate, il candidato del centrosinistra Micari al 6%, sostenuto dal PD. Mi sembra un po' poco, però insomma questo è il rilevamento e vedremo che cosa succede in Sicilia. La Sicilia, ricordiamolo sempre, è molto importante. Allora, Bossi che se ne va, la Lega potrebbe subire la scissione del suo padre fondatore e a questo punto mi sembra che la cosa più interessante sia raccontare qualcosa sul rutto. È una pagina meravigliosa, un corsivo di Massimo Gramellini sulla prima pagina del Corriere, il caffè, era un po' che non lo leggevamo, ma veramente è meraviglioso. Sabato prossimo a Torino si svolgerà il primo campionato nazionale di rutti. Salvo ripensamenti della giunta Grillina, ovviamente, da sempre attenta alle multiformi espressioni della cultura popolare, il prestigioso evento invaderà, racconta Gramellini, il cuore pulsante della capitale sabauda, Piazza Castello, perla del barocco e adesso anche del barutto. Pur inserendosi nel solco di altri appuntamenti culturali di grande rilievo, come la sagra del cioccolato e del fungo fritto, che già negli anni delle amministrazioni di sinistra impreziosivano le austere piazze del centro, l'iniziativa Burp d'estate configura un ambizioso salto di qualità. Se dovesse essere premiata dal favore del pubblico, pubblico e considerato il livello, non è difficile immaginare, scrive Gramellini, che lo sarà. Potrebbe aprire un nuovo filone dedito a sviluppare tutti quei sommovimenti dell'agire umano che tendono, per così dire, a sorgere all'interno e proiettarsi all'esterno. Dopo aver trasformato Piazza Castello in un ruttodromo, racconta Gramellini con sarcasmo, si potrebbe organizzare una Champions del Catarro a Piazza San Carlo con contributi anche di nasi esteri, purché di riconosciuta qualità. Piazza Vittorio, una delle più grandi d'Europa, sarebbe lo scenario ideale di una Urolimpiade degli sputi, mentre la risorgimentale Piazza Carignano, deliziosa e raccolta, ha le dimensioni giuste per assaporare un concorso internazionale di flautolenze o la sede di un museo del filo interdentale. Nonostante le luminose prospettive, i torinesi, chiude Gramellini, restano preoccupati. E se il campionato dei rusti avrà successo, pensano, non è mica che Milano ce lo porta via? Fantastico! Traffico! Mattino. Sì, lo so, sono rimasto qui emozionato da questo evento culturale. Ho letto adesso Gramellini che racconta la gara del rutto di Torino e allora qua serve la citazione d'epoca, meravigliosa, letteraria, Ovo Sodo di Virzì. Poi c'era Silvano Ciriello, detto Wyoming, per una sua particolare abilità. Sapeva dire anche Baule, Aurelia, Aiuola e Palaia, che era il paese della sua mamma. Palaia, chissà come l'avrebbe pronunciato il mitico Wyoming. Allora, ci sono alcune citazioni. Chi vuole capire qualcosa sul caso Consip, Travaglio oggi ritorna con un editoriale godibile, comunque la si pensi, l'autobomba. E il titolo del Fatto è la bomba del bomba, intendendo con la seconda bomba la prima, il complotto, e con la seconda il soprannome che il Fatto riserva a Matteo Renzi. Allora, l'altra cosa è un grido, un ruggito di rabbia di Libero contro il governo. Ah, con 600.000 con il PD si compra i voti di un esercito di giovani, 500.000, non 600.000, 500.000 assunzioni nello Stato. Ma adesso è il momento della nostra mitragliata di notizie meravigliose, quella con cui chiudiamo sarà veramente da culto. Si sono lamentate le donne di Forza Italia, definite il partito del tacco 12 da Repubblica, e dicono: ah, e i tacchi della Boschi, perché non ne parlate? Ne abbiamo parlato. Però le donne di Forza Italia, con una bella intervista della Giammanco, molto adirata, intervistata da Carmelo Lopapa, Repubblica, pagina 6, protestano. Questa è veramente bella, dice qualcosa sull'Italia. La Verità ci racconta, a pagina 23, che le donne divorziate e le famiglie dei divorziati tendono a risposarsi. Ma lo sapete con chi? Con gli ex mariti e le ex mogli, il ritorno al coniuge. È fantastico. Buone notizie, lo sapete? È uscito adesso, voluto da Cairo, un settimanale che è allegato al Corriere della Sera solo di buone notizie. Devo dirvi una cosa, devo essere un po' cattivo perché ho sofferto a leggerlo, mi manca qualcosa, mi manca il sale, mi manca la cattiveria, ma siccome una buona c'è, ve la leggo, pagina 31, quando i dipendenti salvano l'azienda, un fenomeno molto diffuso, e lo racconta Davide Larietti. Bravi, salvate! Rischia di chiudere il settimanale Rolling Stones, ce lo racconta il Corriere della Sera, rovinato da una buccia pestata su cui è scivolato, il racconto di uno stupro in un college che non esisteva, costretto a pagare ingenti spese legali. La rivista che ha raccontato la storia del mondo, ricordate la foto di John Lennon rattrappito in posa fetale nudo fra le braccia di Yoko Ono? Ebbene, Rolling Stones rischia di sparire. Parlo Piano sulla Verità ha raccolto, dopo, ricordate i jeans strappati di cui abbiamo discusso insieme a Oscar, ebbene ha raccolto una raffica di divieti meravigliosi delle scuole. Ne leggo qualcuno: il dirigente dell'ISIS di Sacile, in vicino Pordenone, Alessandro Basso, ha messo al bando con una circolare specifica infradito canotte, ciabatte e pantaloncini. Meraviglioso! Ma non è finita qui! La preside Amanda Ferrario del Tito Livio di Milano, sconvolta dall'abbigliamento dei suoi studenti, ci racconta Carlo Piano, ha dichiarato: serve il muso duro, serve la linea dura, pugno di ferro, un'altra circolare per impedire, sentite, canotte, trasparenze e soprattutto esposizione di pizzo. Ma come vanno a scuola? Vogliamo le divise? È un'interrogazione del gruppo di Forza Italia che propone, sempre su questo tema, e sempre lo leggo da Piano, torniamo alle divise, e c'è una bellissima foto, il Christ College in Nuova Zelanda, sono un gruppo di 4 ragazzi con la cartella, ci sono anche le immagini sui giornali che raccontano qualcosa, in un bellissimo paesaggio di bruma con una giacca nera a righe, sembrano gli arbitri dell'hockey, una cosa tremenda. Ma la notizia più drammatica è veramente una prima pagina che un po' ci turba. Beh, questa notizia è il sussidio per lo jihadista. Ce lo racconta il Fatto Quotidiano. Londra dà il sussidio all'ex terrorista. Ma è meraviglioso, dai. Giuseppe Lobianco, l'italiano Tomaselli torna al lavoro. Stipendio no, ma... Nei video diffusi sul web compare in tuta mimetica mentre imbraccia un mitra, racconta sul Fatto Giuseppe Lobianco, e invita a colpire i popolari autobus rossi di Londra. Il suo nome in battaglia è Abu Abdullah al-Britani e dopo aver trascorso un anno in Siria combattendo insieme ai soldati di Rayat al-Tahed, un gruppo di fuoriusciti britannico confluito poi nello Stato Islamico, è riuscito a tornare a Londra nel 2014, dove viveva nel quartiere settentrionale di Camden, lavorando come guardiano di un parcheggio. E quando l'intelligence lo ha scoperto, il welfare britannico lo ha soccorso. Lo hanno sospeso dal lavoro, garantendogli però l'identità di disoccupazione. Ma è fantastico! Pagina 13. Io non sono di quelli fallaciani, io sono tollerante, però insomma, se lo sospendi dal lavoro perché fai proclami che vuole colpire gli autobus, gli dai il sussidio. Siamo alla follia! I look through my window. 28 anni, indagato a Londra, è finito nel mirino dei servizi inglesi dopo un viaggio nel 2013. Se volete leggervi questa storia la trovate sul Fatto a pagina 23. E allora abbiamo raccontato quasi tutto e ci avviciniamo alla parte più importante di questo programma, quello in cui arriva il gattone Oscar Giannino, però bisogna chiudere con gli sfidanti. Un po' li ho raccontati, i 7 sfidanti ufficiali, diciamo così. Tommaso Rodano fa un elenco molto dettagliato sul Fatto Quotidiano. Sono sparring partner, secondo lui: uno è fruttariano, un altro è un esperto di trapianti di calvizie, la terza Nadia Piseddu, famosa per quel suo curriculum in cui scrive Nadia, Nadia, Nadia. 7 comparse sfidano Di Maio, racconta Repubblica. E anche qui c'è un altro bel ritratto: dal mistico al guru anticalvizie, la corrida delle comparse. Tommaso Ciriaco, la notte della svolta è quella del 16 settembre. Alle 22.05 il futuro candidato premier Andrea Davide Fralliciardi semina su Facebook l'indizio chiave: di tutto ciò che fai, scrive, resta traccia. E beh, ovvio, il dado è tratto, la sfida Di Maio pure, anche se per tutti Fralliciardi è anche soltanto un perito elettronico che ha appena pubblicato un inedito musicale da 1000 visualizzazioni. Sei nato con il potenziale, si caricava qualche giorno prima citando il mistico poeta persiano Rumi. Tu sei nato con bontà e fiducia, tu sei nato con ideali e sogni, tu sei nato con la grandezza. E vabbè, Vabbè, e allora con questo sfidante di Di Maio noi vi salutiamo per un momento soltanto e torniamo subito dopo GR e Strade.